Transparse, un nuovo incubo sulla scena. E questa è dedicata a tutte quelle persone che hanno supportato tutto questo tempo. Quante storie sfiorano in questo mondo intrappolato. In questo incubo ho perso troppo tempo. Cammino sul sentiero fuggendo da questo inferno, dove non so più cosa sto facendo. Sto trovando un pretesto per salvare me stesso dall'inferno che mi ha intrappolato, cercando un riscatto per ogni danno che ho fatto. Ma sembra che la gente mi viene contro, abbia già crocifisso senza un giusto processo. Chissà se avessi avuto un centesimo per ogni volta me l'hanno messo in culo. Oggi vivrei recuperativo, a me non me ne fotte un cazzo di un passato che ha lasciato nell'anima un solco. Quante storie sfiore in questo mondo intrappolato, in questo incubo dove ho perso troppo tempo. Cammino sul sentiero fuggendo da questo inferno, dove non so più cosa sto facendo. Cerco una fuga da me stesso ora che è un nuovo incubo mi sta nascendo dentro, conquistando la mia mente. Preparatevi a tremare voi che state di fronte al nuovo incubo. È da tempo che parlo troppo, parlo spesso, dico ciò che penso e non mi preoccupo dell'effetto che provoco. È così che mi ha insegnato quel mondo da cui provengo, dove con i soldi e la forza si ottiene di tutto, rispetto e prestigio. Ma adesso io conquisto il mio mondo, rinasco da incubo. E dire qualche anno fa ero quasi morto, ma da questo inferno sono risorto, diventando più pazzo. Quante storie sfiore in questo mondo intrappolato, in questo incubo dove ho perso troppo tempo. Cammino su un sentiero fuggendo da questo inferno, dove non so più cosa sto facendo. Cerco una fuga da me stesso ora che è un nuovo incubo si sta nascendo dentro, conquistando la mia mente. Preparatevi a tremare voi che state di fronte a un nuovo incubo. E questa qui è dedicata a tutte quelle persone che mi volevano fermare in tutto questo tempo. Guardatemi, sono ancora in scena. Quante storie sono in questo mondo intrappolato, in questo incubo dove ho perso troppo tempo. Cammino sul sentiero dove non so più cosa sto facendo. Sin da ragazzo ho sempre cercato di ritagliarmi il mio spazio, crescendo fra furto e spaccio e drammi quotidiani. In fondo è difficile crescere quando un genitore si perde nel fondo di un bicchiere. Ma così sono cresciuto e vivo sfruttando il momento, fuggendo dal suo inferno da un futuro sicuro dove il cielo l'avrei vista a quadri. Così da perdere il presupposto che in questo mondo è marcio, ho riscritto il mio copione. Quante storie sfiore in questo mondo intrappolato, in questo incubo dove ho perso troppo tempo. Cammino su un sentiero fuggendo da questo inferno, dove non so più cosa sto facendo. Cerco una fuga da me stesso ora che un nuovo incubo mi sta nascendo dentro, conquistando la mia mente. Preparatevi a tremare voi che state di fronte a un nuovo incubo. Ormai ho perso il conto di tutti quei coglioni che mi volevano fare fuori, perché sono ancora qua, ancora più incazzato. Sconvolgo questa città di merda, non seguo più un programma, sarà impossibile da farmi la bocca in questo dramma. Voi venitemi contro, non rompetemi più il cazzo. Ho già accettato una vita nel cesso, sconvolgendo il mio momento. Ora che rinasco da incubo avrete un nuovo passo da temere, un nuovo incubo da sfidare. Quante storie sfiore in questo mondo intrappolato, in questo incubo dove ho perso troppo tempo. Cammino su un sentiero fuggendo da questo inferno, dove non so più cosa sto facendo. Cerco una fuga da me stesso ora che il nuovo incubo mi sta nascendo dentro, conquistando la mia mente. Preparatevi a tremare voi che state di fronte a un nuovo incubo. Quante storie sfiore in questo mondo intrappolato, in questo incubo dove ho perso troppo tempo. Cammino su un sentiero fuggendo da questo inferno, dove non so più cosa sto facendo. Cerco una fuga da me stesso ora che è un nuovo incubo mi sta nascendo dentro, conquistando la mia mente. Preparatevi a tremare voi che state di fronte a un nuovo incubo. E questa è una canzone dedicata a tutti voi. Ormai non provo più niente, non sento più niente. Qualcuno ha provato a fermarmi ma ha fallito. Tu cosa provi, tu cosa senti? Senti in profondità tutto ciò che è dentro. Tirano fuori un incubo, ora sta nascendo. Transfax, in fuga dall'altro mondo. Adesso, adesso vaffanculo. Ma era incartato.